11.02 di questo martedì 22 dicembre prosegue la mattinata informativa sulle libere frequenze di Radio Blackout e va in onda oggi una nuova puntata di Parole Ribelli, quindi un buongiorno a tutti e a tutte voi che siete in ascolto da Francesca. Oggi sarò da sola a tenervi compagnia fino alle 12.45, a questo proposito vi ricordo i contatti per scrivere durante la trasmissione, il numero del telefono fisso è 011-249-5669, mentre per gli sms potete scrivere al 346-667-3263. E a questo proposito è arrivato un messaggio durante il cambio tra l'info e Parole Ribelli che segnala Carabinieri al Vernetto direzione Alta Valle, quindi se vi trovate da quelle parti, cisti! Prima di iniziare vi ricordo che per quest'oggi non andrà in onda il consueto GR delle 12.45, in compenso siamo ben felici di dare il bentornato a Toshi che da oggi potrà tornare a trasmettere qui dagli studi di Via Cecchi e non più in modalità casalinga, quindi insomma lo salutiamo e siamo contenti di riaverlo qui e appunto Cattivi Pensieri andrà in onda poi dopo Parole Ribelli. Allora prima di iniziare vi lascio ancora un po' di musica, poi vado a presentarvi la puntata di quest'oggi. Sonna Fritz, The Cat, dopo beat perfetto, Clementine, expert, ho caffè, express, lira che le men, pieno in un momento, porto swing estrem, io volen come un snake serpent. Sonna Zero, rap Italian play mode, checking down the stair show, cataman and air flow, piccati na yen, spolger faccia na play mode, paradil, one shoe, karate, fatami. Sta macchina e pensiera, no grinder ma aiuta, siamo linde bicchiere, fino a iera, ma in spinta frate, amma dipinte e ringhiere, namma mise bandiere, e chi vorrò 9,50, camagna povera e can, faccio il cadavere mai, frate ma guarda ma san, porto bene, wapin, do quartier, sub style, condottier, rap con cavalier. Una voz lenta, doi voz su, arrivo uno schiaffone sotto forme e flu. Una voz lenta, doi voz su, arrivo uno schiaffone sotto forme e flu. Una voz, doi voz, arrivo uno schiaffone sotto forme e flu. Una voz, doi voz, arrivo uno schiaffone sotto forme e flu. Si chiamano la gioventù bruciata, dal sud dello stivale al nord Italia, noi gente scostumata e disadattata, sogni divisi dall'aria, la crisi impicchiata, il bisogno di una visita dallo psichiatra, qui non c'è un cazzo allora scappo di casa, chi come un pazzo si gasa, di fondo musica da una città che è circondata dalla cenere e i nostri fuori al calare del sole tipo armata delle tenebre. Avete rotto il cazzo che somigliava all'America, il rap in Italia sta prendendo la sua identità. Da post fry questo stop da caso da track un BY mostra. E su 30 anni che aspetta sicuramente non so buon esempio per figlie tammene che se tengo rap che spon in detempio. E de cassa che lasciano segna in terra come Clash. Una voz lenta, doi voz su, arriva uno schiaffone sotto forme e flu. Una voz lenta, doi voz su, arriva uno schiaffone sotto forme e flu. Una voz, doi voz, arriva uno schiaffone sotto forme e flu. Una voz, doi voz, arriva uno schiaffone giorno sotto forme flow. Benvenuti dove il sole scalda le paludi e le nubi, le scritte di sangue sui muri. Sì, ma poi non discuti, vestiti taroccati fatti in due minuti. Nello stereo pompa rap neomelodico con la pala, ed è logico che poi si inala un veleno terroniano dalla nascita. Rimane dentro qui de puta madre, tu guarda il para. Se tocchi la signorina, il padre ti massacra. A chi appartieni tu? A zio Gennaro giù alla strada. A luna pranzo e poi alle 5 ancora a tavola. L'odore del ragù domenica riempie la sala. Poi dal barbiere il sabato qui c'è la ressa, e le signore eleganti solo per andare a messa. La perfezione come tre carte a Garibaldi. Abbiamo l'arte di arrangiarsi, bastardi. Una voz lenta, doi voz su, t'arriva uno schiaffone sotto forme flu. Una voz lenta, doi voz su, t'arriva uno schiaffone sotto forme flu. Una voz, doi voz, t'arriva uno schiaffone sotto forme flu. Una voz, doi voz, t'arriva uno schiaffone sotto forme flu. Una gioventù brucia, è una gioventù brucia, è una gioventù brucia, è una gioventù brucia. Oh, oh, Mr. Gets, Clementino, 2013, verrà da me. Oh, oh, Milano, Napoli, Italia, bastard! Allora, 11.08, siete sempre all'ascolto di Parole ai Ribelli sulle libere frequenze di Radio Blackout. Vado a presentarvi brevemente la puntata di quest'oggi. Per quanto riguarda il contesto italiano, andrò a fare due parole rispetto alla legge di stabilità che è in approvazione proprio in queste ore per il via libera definitivo della Camera e del Senato, che contiene anche alcuni emendamenti rispetto alla questione dei ricercatori universitari, che negli ultimi giorni hanno fatto molto discutere, quindi andrò a fare una breve rassegna stampa in merito. E per quanto riguarda invece l'Università di Roma, ci metteremo in collegamento con i compagni e le compagne di Sapienza Clandestina, che nei giorni scorsi si sono visti recapitare delle multe da migliaia di euro per la manifestazione che era andata a contestare alcune settimane fa la Maker Faire all'interno della Sapienza di Roma, questa fiera appunto che aveva chiuso per giorni l'università lasciando fuori gli studenti, che appunto oltre ad essere stati caricati nel corso della manifestazione si sono poi visti recapitare queste multe, ma nei giorni scorsi sono anche andati a chiederne conto a chi di dovere, quindi ci faremo un po' raccontare com'è andata. Per quanto riguarda invece il contesto internazionale, andrò a darvi qualche aggiornamento rispetto alla mobilitazione degli studenti di San Paolo in Brasile, di cui abbiamo già parlato in maniera approfondita la scorsa settimana. Abbiamo fatto una diretta con un compagno, Livio, che appunto è da poco in Italia, che ha raccontato insomma nei dettagli quello che sta succedendo in questi mesi, anche quali sono appunto le prospettive future di mobilitazione che sta appunto continuando. Proprio ieri c'è stato di nuovo un grosso corteo a San Paolo che è partito dalle varie scuole occupate del paese, quindi andremo a vedere un po' com'è andata. E sempre rimanendo in ambito internazionale, vi farò poi sentire invece un breve approfondimento sulla lotta degli insegnanti del Chiapas, che appunto si stanno anche lì mobilitando contro una riforma del sistema scolastico e per gli aumenti dello stipendio. Quindi questo è più o meno quanto per la puntata di quest'oggi. Insomma, sarà una puntata abbastanza soft, già in versione un po' natalizia, quindi ci daremo anche un po' di spazio per la musica. Per l'appunto vi lascio ancora a un pezzo, poi iniziamo con la puntata. See, before I draw the line, let me welcome you close to all the folks who knew Obama sold the people of hopes. Gave the money to suckers while our community's still poor. Withdrew the troops but started another war. Colonizing, terrorizing, creating the oil crisis so they can make a killer, no food and gas prices. Prisons is filling, they trying to lock up the future. Militarized borders and control of computers. Wall of stupid bumping music that ain't healthy for the shortest. Privatizing schools and policemen in the hallways. Can't be dormant, I've awoken. Rise up, be ready, brought the family with us, and we hold the machine.

anche, ma se è impossibile evitare colpi bassi, una mano invisibile ora guiderà i miei passi. Ma se mi portassi per cercare un risultato e non trovassi quasi niente di quello che ho già salvato, so che è peccato, ma sai dove hai sbagliato, a darmi corda e non avermi beccato. Completo 105.250. Allora iniziamo con questa puntata di Parole Ribelli. Come vi annunciavo in apertura, andrò a ripercorrere brevemente la vicenda del cosiddetto DIS-COL per i ricercatori universitari. Si tratta appunto di questo fondo di disoccupazione per i collaboratori, che è stato istituito da qualche anno, e nei mesi scorsi il governo aveva garantito di volerlo estendere anche appunto a tutte quelle figure dell'università, ricercatori, assegnisti, dottorandi, che invece ne sono stati esclusi. E questa esclusione si trova all'interno della legge di stabilità che il governo sta approvando in queste settimane, che anzi proprio oggi dovrebbe arrivare al via libera definitivo, legge di stabilità, insomma, che tiene insieme moltissime cose. Molti sarebbero gli aspetti critici da evidenziare, che sono anche già stati evidenziati su queste frequenze in passato, però volevo appunto parlarvi brevemente di questa vicenda appunto dei ricercatori che in questo modo si ritrovano di fatto senza alcuna tutela e a non veder riconosciuta neanche la loro condizione di lavoratori, il che è abbastanza paradigmatico, perché in realtà sappiamo bene che soprattutto negli ultimi anni, con i tagli che si sono susseguiti per i fondi della formazione per l'università, sono proprio poi i precari, ricercatori, dottorandi, assegnisti che vanno un po' a tappare i buchi di tutti, di altre figure che mancano, e a fare a tutti gli effetti un lavoro. In questo modo invece non gli viene riconosciuta nemmeno la condizione di lavoratori, nonché appunto alcuna tutela, supporto economico, come se si trattasse appunto di studenti a vita. È chiaro che questo avrà delle conseguenze, perché renderà di fatto il lavoro di ricerca possibile solo per chi insomma ha alle spalle una solidità finanziaria che gli permetta di fatto di lavorare gratis e di proseguire quindi il lavoro di ricerca. Per tutti gli altri, insomma, diventerà quantomeno complicato poter portare avanti questo lavoro. Questo è più o meno appunto la situazione attuale. Nei giorni scorsi c'è stata anche una protesta sotto Montecitorio, però dal governo insomma non la questione è stata assolutamente elusa. Anche il ministro Poletti si è rifiutato di rispondere in materia, quindi diciamo per quanto riguarda la legge di stabilità non ci saranno modifiche in questo senso. Ci sono anche alcuni comunicati sul web. Vado a leggermi solo un breve paragrafo, da quello dei ricercatori non strutturati, che appunto nei giorni scorsi hanno anche promosso questa mobilitazione, che scrivono: la realtà dei fatti ci dice altro, ci parla di migliaia di dottorandi espulsi dal mondo accademico, di assegnisti che continuano le loro ricerche con rinnovi alternati di un anno in anno e che nel frattempo si occupano della didattica, di promuovere convegni e progetti internazionali. Ci parla di molti ricercatori che dopo anni continuano a vivere nella zona liminale della precarietà perché non esiste più un turnover. Ci parla di migliaia di persone che lavorano anche gratuitamente nei loro dipartimenti, spinte da promesse che restano sempre inevase. Questa è appunto un po' la condizione in tutti gli atenei italiani. Vedremo insomma se col nuovo anno ci saranno anche mobilitazioni, qualche tentativo di sbloccare la situazione in questo senso. Nel frattempo volevo solo appunto darvi questa notizia, che era appunto di questi ultimi giorni. Vedremo poi cosa succederà. Adesso facciamo un'altra breve pausa musicale, poi ci spostiamo a Roma. Sì, Feng Shui, più brigante, Don Goku. Ah, sì, senti. dire strappo funi. Funky shui più i crudi, le tue orecchie sturi. Drammi e pianti e studi, balli il funk e il boogie. Senti jazz e rap, flow su break, non su bread. Mood e sound fresh, underground no trash. Senza pound no cash, qui si rischia il crash. Decidi entra o esci, attori recitivi, autori decisivi. Amore al primo flash, lasciati prendere dal groove. And feel so good, così accussino giù ne tocca. Non puoi azzittire questa bocca, non puoi fermare la mia tribù. Ci puoi trovare da nord a sud e sembra assurdo, ma prendo spunto dalla natura intorno e non da un idolo di turno. E guardo il nuovo giorno, ho un paesaggio notturno da sveglio sogni e ogni volta ci ritorno. Mi ricordo, bastano due parole, quei tempi che corrono. Due parole, al caldo si accordano. Due parole, tra denti e gole. Sulle strade del sole, bastano due parole, coi tempi che corrono. Due parole, al caldo si accordano. Due parole, tra denti e gole. Sulle strade del sole. Ha capito com'è? È un appello tipo prima ora. Senti tu su sto gruppo Feng Shui, Don Goku con i crudi da giù ed è quello che vuoi. Nuovi mani corridoi della vecchia scuola. Forza la parola, stessa ti ritera. Dal passato ad ora ancora quanto ti rivela. Ora c'è chi cita ma senza cautela. Chissà cosa c'è, la musica sincera mica gliela lascia intera. Bella busi da querela, musica che gela sotto riflettori senza riflessioni sulla tua miscela. Molla capra urla la lupa vela. Questa è una tutela, lume di candela. Qua non si dimentica quando la traccia amnestica. Come sta traccia mescola, stimoli in crescita. La traccia brucia e lascia brace, che dal fondo è capace di riemergere come riace il bronzo. Bastano due parole, come tempi che corrono. Due parole, al caldo si accordano. Due parole, tra denti e gole. Sulle strade del sole, bastano due parole, coi tempi che corrono. Due parole, al caldo si accordano. Due parole, tra denti e gole. Sulle strade del sole. C'è chi l'immagina cogita, rumina, vomita. E chi l'immagina sagita, caggia, sabbacina. O chi in bocca una fioca, formula magica. C'è chi ne orbita intorno ad ogni novità. C'è chi l'immagina cogita, rumina, vomita. C'è chi l'immagina sagita, caggia, sabbacina. O chi in bocca una fioca, formula magica. C'è chi ne orbita intorno ad ogni novità. Ad ogni novità, ad ogni novità. C'è chi ne orbita intorno ad ogni novità. Ad ogni novità, ad ogni novità. C'è chi ne orbita intorno ad ogni novità. Da da da da da da da. C'è chi ne orbita intorno ad ogni novità. Sì, da da da da da da da. C'è chi ne orbita intorno ad ogni novità. Bastano due parole, coi tempi che corrono. Due parole, al caldo si accordano. Due parole, tra denti e gole. Sulle strade del sole, bastano due parole, coi tempi che corrono. Due parole, al caldo si accordano. Due parole, tra denti e gole. Sulle strade del sole. For the lights every day and the people we got, we got, we got. For the hope that we have and the freedom we love. People we got, we got, we got. For the hope that we have and the freedom we love. Они не пройдут, они не пройдут. Das hier ist für meine Leute in Aktion, die sich umsehen und dort starten, wo sie wohnen. Ob in Rostock oder Kiew oder Wachau oder Zürich oder Oslo oder Warschau oder Rom. Die NPD fährt von Deutschland nach Tschechien und mit der DSSS dort zu Herzen. Die dramatische Lage der Roma scheint sowas von normal im Ungarn von Orban. Wo willst du leben zwischen Sarrazin und Co? Marine Le Pen und Wilder Strache NSU. Zwischen Breivik oder Bossi oder bist du auf einer Gay Pride? Zwischen Nazis, Nachbarn und den Bullen. Das geht raus an meine Menschen, die vor Ort sind, die dort leben mit den Ängsten ihrer Hoffnung. Weil uns die Geschichte warnt, mache ich mich stark für das, was wir teilen. No passarán. For the life, every day and the people we got. No passarán, no passarán. For the hope that we have and the freedom we love. Они не пройдут, они не пройдут. For the life, every day and the people we got. No passarán, no passarán. For the hope that we have and the freedom we love. Desaperación, desaperación. Non c'è crisi di coscienza perché parla l'esperienza. La merda resta merda anche se muta l'apparenza. Cambia sembianza, la stessa sostanza. Siete il braccio armato quando il potere incalza. Ti puoi riproporre alla moda, ma anche se cambi grafica è il passato che ti inchioda. I vostri bei tempi, una strage di innocenti. Per questo vi abbiamo schifati da quando siete nati. Ora non c'è niente che ti assista. Esplode per le strade la rabbia antifascista. E l'unico motivo, se sei ancora presente, è che tutto può cambiare ma un infame resta sempre. La vostra scomparsa, la nostra missione. Antifascisti per la rivoluzione. Internazionale militante, fatto per la gente. For the life, every day and the people we got. Non passeranno, non passeranno. For the hope that we have and the freedom we love. Они не пройдут, они не пройдут. For the life, every day and the people we got. Non passeranno, non passeranno. For the hope that we have and the freedom we love. Desaperación, desaperación. Non passeranno, grito vigente en nuestros días. Solo que hoy la barricada enemiga se amplía. Todos en tu contra si tú luchas por la gracia. Porque hoy el fascismo se llama democracia. Capitalismo tiene varias herramientas. Democracia o dictadura, usa la que te convenga. Militares, policías, diputados. Recuerda, Adolf Hitler de las urnas fue votado. En tiempos convulsos el lenguaje populista gana afiliación. Hablan de marginación, culpan a la inmigración. Unos con traje tienen escaño en las cortes. Otros en la calle usados de fuerzas de choque. Y una muerte más en manos de los fascistas. Ni en la calle, ni en los CIE, ni en las comisarías. Racismo y fascismo callejero o institucional. Volvemos a gritar, no pasarán. For the life, every day and the people we got. No pasarán, no, no pasarán. For the hope that we have and the freedom we love. Они не пройдут, они не пройдут. For the life, every day and the people we got. No pasarán, no pasarán. For the hope that we have and the freedom we love. Desaperación, desaperación. Φωτίζει και αφορετική αντίληψη και στάση. Μιλώ για επανάσταση, αλλά μιλώ για δράση. Και όλα αυτά που κάνανε, κανείς δεν θα ξεχάσει. Γι' αυτό δεν θα περάσει. E 30, mi scuso per la pausa un po' prolungata, ma i compagni di Roma sono attualmente irraggiungibili, quindi faremo un breve cambio di programma. Nel frattempo un ascoltatore o ascoltatrice ci scrive: bellissima la canzone con pezzi in tedesco e di signor K, Cero Moretti o chi, grandi blackout. Allora, il pezzo che abbiamo appena ascoltato è stato fatto all'interno del progetto Rap Militante Internazionale. C'era sia appunto Acero Moretti, gli altri rapper appunto della scena internazionale erano Rap Folk, Kronstad, Daisy Chain e Miss Zebra. Il pezzo, scusate, ma ha un nome assolutamente impronunciabile in tedesco, comunque se digitate i nomi dovreste trovarlo facilmente. Io vi lascio ancora un pezzo, poi proseguiamo con la puntata. Questa va, check it out. Per chi è costretto a nascere oggi per migliorare il domani suo, per migliorare le cose. Per mio fratello Arne Pizz 2011.

il 12 e il 13 dicembre. Questo sistema di valutazione di fatto serve per stilare una classifica degli insegnanti, dividendoli tra migliori e peggiori, che determina poi non solo gli orari ma anche gli stipendi dei maestri, su cui invece gli insegnanti stanno chiedendo da tempo un aumento generalizzato. Ma non solo, la loro mobilitazione si inserisce anche in un contesto più ampio di contestazione della riforma del sistema scolastico che il governo sta cercando di approvare, come sentirete appunto adesso da questo approfondimento. Nei giorni scorsi, comunque, appunto in occasione di questa valutazione degli insegnanti, ci sono stati degli scontri anche molto violenti tra i maestri e la polizia, che ha attaccato il corteo, come sentirete. Questo approfondimento è stato fatto con un insegnante, con il portavoce dei maestri dello Stato del Chiapas, che appunto ha fatto questo breve resoconto che adesso vi faccio sentire. Guarda, è 36 anni che lottiamo per i diritti degli insegnanti in Chiapas e nel paese. La nostra lotta è soprattutto per il salario, perché non solo è basso, ma è anche precario. A questo si somma la lotta contro la volontà del governo di attaccare l'educazione pubblica, modificando l'articolo 3 e l'articolo 73 della nostra Costituzione. Il governo vuole imporre queste trasformazioni con sangue e fuoco e non si vuole fermare davanti a nulla. Intenta sepultar al reformar el artículo tercero constitucional y el artículo 73. Esta reforma, mal llamada reforma educativa, mandatada por la OCDE y auspiciada acá en México por Mexicanos Primero, una organización pseudofilantrópica donde se encuentran los hombres más ricos del país, intenta a sangre y fuego, porque hoy es claro, es evidente que han militarizado el sur sureste, donde tiene más resistencia esta investida en la educación pública, lo han militarizado para imponer a sangre y fuego esa mal llamada reforma educativa. Pero claro, los maestros de la CENTE, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, y otros maestros que no pertenecen precisamente... ¿Ci racconti cosa è successo l'8 e 9 di dicembre in Chiapas nelle mobilitazioni contro questa riforma educativa? El gobierno, a pesar de que es la... Prima di iniziare la nuova fase della lotta, quella contro la malcelata riforma educativa, abbiamo consultato gli altri maestri, abbiamo consultato i genitori e gli studenti e poi abbiamo iniziato la mobilitazione. Dopo le consultazioni abbiamo detto no, questa riforma non ci va bene. Il 12 e 13 dicembre dovevano valutare tutti i maestri dello Stato del Chiapas e noi volevamo boicottare questo tipo di valutazione, che serve solo a dare più forza ad alcuni maestri, dandogli più ore e più soldi, e invece impoverire sempre di più la maggioranza dei maestri, con la scusa che alcuni sono più bravi di altri. Appunto, il 12 e il 13 doveva esserci questa valutazione, ma ad un certo punto lo Stato, il governo, ha cercato di sorprenderci e ha anticipato la valutazione al 9 dicembre. Noi ci siamo mobilitati. Sapendolo, il governo ha schierato 15.000 agenti per bloccare la nostra mobilitazione. La popolazione del Chiapas è particolare, non solo perché qui è nato le ZLN, ma perché è una popolazione povera con una storia di lotta molto lunga, e così abbiamo deciso di rispondere alla repressione con quello che trovavamo in giro e come potevamo. Il governo ha incarcerato 6 maestri in un carcere di massima sicurezza e ha ucciso un maestro di una scuola normale rurale. Noi abbiamo mobilitato tutto il magisterio, 120.000 persone. Intanto, negli scontri, anche noi avevamo catturato alcuni membri delle forze dell'ordine. Il giorno dopo abbiamo deciso di fare un'altra manifestazione, di non fermarci, perché volevamo liberare i nostri compagni. Centinaia di migliaia di persone si sono mosse con noi e così abbiamo trattato la liberazione dei nostri compagni, e anche noi abbiamo ridato i poliziotti che avevamo preso. Ci teniamo a precisare che noi li avevamo presi solo ed esclusivamente per cercare di liberare i nostri compagni, senza fargli nulla di male. Con questa scusa, con la scusa degli scontri, con la scusa delle mobilitazioni, il governo cerca di far passare la riforma educativa, ma noi non ci fermeremo. Poner por medio de esa retención de ese secuestro, imponer la evaluación, imponer la reforma educativa, cosa que los maestros de Chiapas no permitimos, y llamamos a nuestros padres de familia, y en una mega marcha posterior a ese día de la del crimen a nuestro compañero, logramos, porque también se nos reprime antes de llegar a Palacio Central, donde íbamos a hacer un mitin, y logramos retener a cuatro policías federales, perdón, dos federales, uno municipal y uno de la, un militar de la Marina. Esa retención, bueno, hay que ser claro, propició que el gobierno ya no recluyera a nuestros maestros en cárceles de máxima seguridad, como tienen a cuatro compañeros de Oaxaca, como si fueran delincuentes, y permitió la negociación y se libera a nuestros compañeros, liberando también nosotros a los policías. Eso es lo que sucedió en Chiapas los días 7, 8 y 9 de diciembre. Es decir, otra vez... Oltre a quello che vi è successo a inizio dicembre, ci puoi dire cosa pensi della situazione delle lotte sociali nel paese e dei diritti in Messico? Grazie. Voglio essere onesto e ti dico quello che pensiamo noi dominati. In questo paese non esiste uno Stato di diritto. Come hanno detto già l'ONU e la Commissione Interamericana dei Diritti Umani in Messico, si criminalizza la protesta sociale. Si inventano storie di droga o armi per arrestare i compagni. La tortura è una pratica diffusa nei confronti di chi lotta socialmente, come è accaduto ai nostri sei maestri quando sono stati presi. Il caso di Ayotzinapa, per esempio, è un caso paradigmatico di quel che accade nel nostro paese e della compromissione delle polizie e del governo in quel che succede. Anche perché i normalisti sono il simbolo e il paradigma della maggior parte della popolazione messicana, oltre che essere simbolo della difesa della scuola pubblica in Messico, e per questo sono all'interno della consulta dei maestri per la difesa della scuola pubblica. Questa è una pratica nel governo messicano. Non esiste il menor spazio per far valere i diritti dentro di esas leggi che stanno hechas a modo. Bueno, el caso de Ayotzinapa es un caso que puede ser paradigmático en la falta de los derechos humanos en el país. ¿Cómo explicar que la policía municipal, que la policía federal y la policía, perdón, el ejército mexicano hayan sido partícipes en esta desaparición forzada que el Estado mexicano hizo a nuestros compañeros estudiantes normalistas, y que no es un caso aislado? Es parte de la embestida a la educación pública, porque los normalistas rurales se caracterizan por dos cosas. Una, que son gente de más bajos recursos económicos, son los más pobres entre los pobres, los que tienen la única oportunidad de estudiar en una normal rural. Y por otro lado, las normales rurales en verdad son el semillero de la disidencia, que pasa a ser después magisterial. O sea, ellos van para maestros y formados en una normal rural donde se les proporciona educación, pero también educación crítica, y que riñe con los planes de programas de estudios oficiales. Bueno, estos compañeros pasan a ser parte de la dirigencia de la disidencia magisterial que hoy lucha por la defensa de la educación pública. Allora, questa era la testimonianza appunto di questo insegnante dal Chiapas. Rimanendo brevemente nel contesto messicano, insomma, nei mesi scorsi abbiamo sempre seguito qui dalle frequenze di Parole Ribelli la vicenda degli studenti normalistas di Ayotzinapa, a cui accennava anche questo approfondimento. Insomma, nelle ultime settimane non ci sono stati grossi aggiornamenti su quel fronte. Sono ormai trascorsi 15 mesi dalla loro scomparsa e ancora le loro famiglie stanno rivendicando il diritto ad avere la verità su quello che è accaduto a questi 43 studenti. Bene, il 26 di dicembre ricorreranno appunto 15 mesi dalla loro scomparsa. In quell'occasione, come è stato fatto appunto tutti i mesi, il 26 di ogni mese da appunto dal 2014 a oggi, ci sarà una nuova manifestazione a Città del Messico che verrà aperta proprio dai familiari degli studenti e dai loro compagni di scuola, dagli insegnanti che appunto riempiranno di nuovo le strade di Città del Messico chiedendo verità su quanto è accaduto. E chiedendo anche che episodi di questo tipo non si ripetano mai più, perché come diceva anche la diretta di poco fa, questo tipo appunto di aggressioni, di violenze sono all'ordine del giorno. Infatti notizia anche di pochi giorni fa che sempre nello stato del Guerrero, che è lo stesso dove in cui sono scomparsi appunto gli studenti di Ayotzinapa, nei giorni scorsi appunto sono stati trovati altri cadaveri abbandonati appunto in mezzo a una discarica. Quindi insomma, questo come abbiamo detto più volte, la vicenda di Ayotzinapa ha avuto anche il merito, la capacità di togliere questo velo di silenzio da queste violenze quotidiane che vedono intrecciate appunto lo Stato e i vertici dell'esercito e delle forze dell'ordine. Con questo chiudiamo un po' la parentesi sul Messico. Io, prima di fare un'altra pausa, ne approfitto per mandare un saluto a Riccardo che ci sta ascoltando dal confine tra Libano e Palestina, che ci manda un saluto. Quindi fa piacere sapere che Radio Blackout raggiunge anche mete lontane, quindi ricambiamo i suoi saluti e speriamo di riaverlo presto qui a Torino. Io vi lascio un po' di musica, poi proseguiamo con Parole Ribelli. And I never look away. Power, power, power, power, power, power, power, power, power. God take king, king take jack, jack take queen, cause she never talk back. Queen take ten, faceless, down to one and it's aceless. That's the power stack, that's the power stack, that's the power stack. P-O-W-E-R, P-O-W-E-R. Power, the essence of everything, see it every day. Power fucked, everywhere, not looking underfed. Swinging on your life, better duck. Power stay in the hands of the few. They call it good business, we call it bad luck. They call it class war, when we fight back. Power on the attack, it stay raw. Say you better have a team or crew. Someone give a fuck about you. Our community can survive if we want it to. Black cat, best we can get. Rule their power, boot from the face. Put them into place, down with the rest of us. The human race, humanity decentralized. Plenty of us and we ready to ride. Cause we know the time, not mean. But we're cutting back, fuck with the game exposed. Unseen, concentrate the power in your face. Your worth is based on the money that you make and the power you control. Fuck the content of your character, sell that soul. Cutting them teeth, sharp as fuck. Going on in it, don't look up. God take king, king take jack, jack take queen, cause she never talk back. Queen take ten, faceless, down to one and it's aceless. That's the power stack, that's the power stack, that's the power stack. P-O-W-E-R, P-O-W-E-R. I'm not responsible for the things I say and do, held accountable. But that's for us, not their position. It's a double standard, undeniable. Power, she's so desirable. Met her in the hallway, she was crying though. No peace, they want me all for themselves, but I need to be shared. Otherwise I create a beast of authority. Creep, that's not what I wanna be. Girl, good looking out, I stay calm, cool, collected. Cause I took the time and I reflected. No kings, no queens, till we all got crowns. And we run our town and we grown up. Their pitch pole dream getting sewn up. Don't let that heart kiss showed up. The power and corruption, more than an abstract concept or my assumption. The inner business creating an illusion that we have a choice. But these options they set up for us. Hits their agenda, where's a voice? We need to help ourselves together. Sever that mentality, keeps us locked down. Play the fake world, feeling like a guest in your own house. And they took it from us and I know now. Poverty penalties punish the poor. This is the score. We are not born free, it's hardcore. Divided on the map, all in the stack. Power cutting and teeth, sharp as fuck. Going on in it, don't look up. God take king, king take jack, jack take queen, cause she never talk back. Queen take ten, faceless, down to one and it's aceless. That's the power stack, that's the power stack, that's the power stack. P-O-W-E-R, P-O-W-E-R. Power, power, power, power, power. Never look away, said I never look away. Power, power, power, power, power. Poco poco era il tuo amore, tanto tanto invece il male. così ti dicerno beat sul beat di Demi Satico, ma la fasciata Yankee di Bengasi, sì che senti il tappo da pazzi nasi. Vengo dalle foglie senza videoclip in HD, in più cerca di rogne col deforme coi debitti, polvere sui dischi, il pelo aumenta insieme ai vizi, bella prassi tu le viste, MC depressi danno dignità, in cambio di un anno da star ma barubà. Io ci metto amore in base al mare che c'è fuori, tra chi si lascia andare al cachet dei suoi padroni, siete clown, fate rade, ciao, federato al sound, serpense non suono, l'etimo il battesimo del fuoco, il vuoto, non lo colma un voto, la vendetta un piatto, una ricetta per ogni cuoco, ma ci sta uno stronzo in divisa tra me, la libertà tra vaso senza piombo, in bocce di panchi paschi per rap, da partita IVA con passiva ira, con passa in riga, poi mi sudo il culo che ti fa la vita, amara, armaci per il conflitto, uccidi il ricco, muori, provandoci, il ritmo della serpe che non striscia, lascia perle sulla spiaggia come l'onda che ristacca, se dalla doppia H, ti aspetti un'altra pacca, sulla spalla sono il peso, sulla schiena che ti accascia, lascia sta, vada se, nada se, rapa, peso alle parole, le distilla come grappa, fa la posa giusta, strategia del pesce palla, con la bolla d'aria in pancia che ti gonfia come un push-up, emergenti come stronzi a galla, ma è la merda in un barile, fra barrimi e starra, ciò che tiene questa scena finché poi non crolla, fuori dal greggio c'è solo l'ultima colonna, famoso per un quarto d'ora ancora, come dice Warren, burattino che non spara è buono, per riproporre un suono, poi canti chiaro il testo, meglio non dirlo, resto nel deserto con la scocca dell'armadillo, il pollo doppia P, pubblicità progresso, il beat si ferma qui, è il mio che corre lesto, se poi ci aggiungi l'estro, la rabbia, il cuore, il lessico, il cantico del diapa sono il risultato dell'estrigo. Poco poco era il tuo amore, è sempre poco il fuoco, tanto tanto invece il male, che metti in questo gioco. Poco poco era il tuo amore, è solo il fuoco greco, tanto tanto invece il male, che metto in questo gioco. Al limite che segue l'ordine. Poco poco è il tuo amore. Se l'irite non vede. Quanto quanto ora mi costa. L'elettore è complice. Se è vero che ogni epoca ha la musica che merita, la verità sorriderà chi medita sulla realtà decrepita. Se è fredita la traccia non seguirla. Il pedale è una fogna. Arianna è già carogna, non salvarla. E sia l'eutanasia di questi pop che è diventato cingo per gli spotti che parla. Prigioni sotto fondamenta, l'entropia del mondo. Quando ti presenta il conto sarà un vanto per la gente, per la gente che ti ha spinto. Ultima MC non rapito, guarda questa luna, lascia perdere il dito che la punta, che la punta disciplina sia la grinta, la consapevolezza che ogni via d'uscita è finta, come una porta dipinta, quindi non affidare. La spinta per emergere è una pinta, il compito di immergere le paranoie antiche, come se cuoie nemiche, sorride a chi la coglie tra le foglie della vite. Quando componi ponete ricorda, fini quell'arma che è come una corda tesa di una fionda resa, non è contemplata ora per l'ultima aurora, un'ultima colonna sonora, questa è carne e senti come suona. Sulla traccia Highlander tra le salme siamo solo carne. 11:54, bentornati all'ascolto di Parole e Ribelli sulle libere frequenze di Radio Blackout. Proseguiamo con le dirette per la giornata di quest'oggi e adesso dovremmo avere a questi microfoni Arianna di Sapienza Clandestina, che intanto saluto. Ciao Arianna. Ciao a tutti e tutte. Allora, con te volevamo un po' ripercorrere quello che è accaduto in questi ultimi giorni. Sappiamo che ad alcuni studenti appunto dell'Università Sapienza di Roma sono state recapitate delle multe piuttosto elevate per la manifestazione che si era opposta a Maker Fair a metà ottobre. Ti chiederei intanto di ripercorrere brevemente insomma cos'era successo in occasione di quella giornata e di quella manifestazione, poi di spiegarci anche un po' come si è arrivati a questa vicenda delle multe. Eh sì, inizio di nuovo, ciao a tutti e tutti, inizio con un brevissimo excursus diciamo dell'accaduto di quest'autunno riguardo alla questione Maker Faire e poi arrivo diciamo agli ultimi svolgimenti della vicenda. Innanzitutto la Maker Faire, insomma, come molti sapranno, perché non era la prima edizione a Roma, ma non era nemmeno la prima edizione a livello internazionale, è una fiera universale di questo nuovo movimento che si chiama genericamente Makers, diciamo di quei gruppi di ragazzi, ragazze, in teoria questo, che sanno fare qualcosa con le loro mani, diciamo questo è il concetto generale. Questa fiera in realtà diciamo assunto negli anni delle tinte e delle connotazioni molto ben precise, innanzitutto a sponsorizzarla, quantomeno per quanto riguarda l'edizione di Roma, ma so anche di proteste molto grandi che ci sono state a Berlino, a Londra e in altre città dell'Europa, quindi mi immagino che sia più o meno condivisa questa cosa, sono sponsorizzate dalle più grandi multinazionali tecnologiche del mondo, Google, Intel, Microsoft, insomma chi ne ha più ne metta. E questo già dà, diciamo, una visione realistica di che cosa significa in realtà questa fiera, che vuole nella teoria, diciamo, stimolare e finanziare il piccolo artigianato, i piccoli makers e questo neo movimento, ma in realtà dietro ha dei giganti e delle multinazionali che comprano le idee, in poche parole, di questi ragazzi e ragazze. Ma di fatto il contenuto, la problematica principale per la quale poi noi siamo andati contro questa Maker Faire nello specifico dell'edizione di Roma e proposta all'interno dell'Università della Sapienza, era per le modalità, cioè la città universitaria è stata chiusa come se fosse fondamentalmente un palazzo dei congressi, è stata messa una biglietteria all'esterno, questo per la prima volta nella storia della Sapienza, non era mai avvenuto prima, e si è fatto pagare il biglietto d'ingresso a tutti, bloccando tutti gli accessi tranne quelli con la biglietteria davanti. Questo durante le giornate di lezioni, esami, laboratori, quindi interrompendo di fatto un pubblico servizio che è quello della città universitaria più grande d'Europa e facendo pagare l'ingresso anche agli studenti e alle studentesse. Quindi diciamo questo era stato il monito che ci aveva fatto partire con la protesta ad ottobre. Il 16 ottobre insomma l'avranno visto in molti, anche girato nel web e su molti giornali cartacei, sono viste le foto, le immagini, i video di quelle scene raccapriccianti, sono state le cariche da parte della polizia davanti a un piazzale Aldo Moro completamente blindato con le camionette, gli idranti. In quell'occasione ci sono stati gli arresti degli studenti e delle studentesse che erano venute a manifestare contro la Maker Faire nel giorno della sua inaugurazione, hanno passato poi la notte a Regina Ceneri in carcere. E diciamo tante cose di cui abbiamo parlato, anche che vi abbiamo raccontato anche da questi microfoni. L'ultima, diciamo, rivolgimento della vicenda, l'ultima novità è che la questura, non parca di quello che già aveva fatto con le cariche, con gli arresti, con i feriti eccetera eccetera, ha deciso di mandare non una denuncia penale bensì una sanzione amministrativa a 40 fra studenti e studentesse, tutti iscritti all'Università alla Sapienza, chi ricercatori, chi alla triennale, chi alla magistrale, insomma. 40 ragazzi che hanno ricevuto questa sanzione amministrativa, che è fondamentalmente una multa per aver bloccato, così c'è scritto, perché diciamo il mandante della multa è la questura attraverso la prefettura e prefetto di Roma Gabrielli, che figura con il suo nome e cognome dentro i fogli di queste 40 multe, questa multa per aver bloccato un pubblico servizio, cioè la strada di Piazza Aldo Moro nel giorno di inaugurazione della Maker Faire. La multa va per ognuno dai 2.000 ai 10.000 euro, quindi per un totale al suo massimo, al suo peggio, di 400.000 euro di multa per questa cazzo di Maker Faire. Quindi diciamo fondamentalmente queste sono le multe che sono arrivate subito a seguito di questa vicenda, che nel frattempo non si era bloccata, diciamo, ad ottobre, ma comunque aveva animato tutto un dibattito sul web attraverso le pagine Facebook della campagna Maker Faire per chi, eccetera, eccetera, con attori diversi tra i makers, gli studenti, giornalisti, eccetera, eccetera. Si è rianimata a seguito di quest'ultimo episodio, perché anche noi e tutti i ragazzi, i collettivi e le ragazze coinvolte dentro la campagna, ma soprattutto quelli sanzionati, hanno iniziato ad animare quasi continuamente dalle ultime due settimane, quando sono iniziate ad arrivare le multe, delle iniziative all'interno della città universitaria dislocate nelle diverse facoltà. E diciamo l'ultimissima novità è che siamo ovviamente entrati dentro il rettorato, l'abbiamo occupato, questo avveniva mi sembra venerdì, e abbiamo occupato il rettorato per diverse ore cercando il rettore, che noi continuiamo ad individuare, come abbiamo detto fin dall'inizio, come il responsabile politico di tutta questa vicenda. E il rettore, che invece era in giro per la città di Roma a fare gli auguri di Natale, non si è presentato ovviamente, ma come sempre succede, ma dato che noi non ce ne andavamo da là dentro tutti multati e le multate, multi alla mano, abbiamo costretto poi il vice rettore vicario e altri professori ad ascoltarci. Abbiamo strappato un incontro ufficiale per oggi, dal quale noi ci auguriamo per loro, diciamo, che prenderanno una posizione pubblica per invitare il prefetto Gabrielli e chi per loro è la questura a togliere questi multi ragazzi. Ovviamente questa è tutta una manovra un po' strumentale, ma più che altro è utile per noi per mettere il rettore alle strette, perché mo, al di là del fatto che ci piace non farli dormire sogni tranquilli, comunque è vero che lui è responsabile politico di tutta questa vicenda, perché è lui che ha deciso di fare Amiche Fair, di farla in quel modo, di ospitarla in quel luogo, e quindi deve prendersi le sue responsabilità, così come noi ci prendiamo le nostre quando andiamo a manifestare, la questura le sue. Quindi diciamo questi sono un po' i giochi in campo al momento, e oggi alle 18 incontreremo appunto il rettore dentro al rettorato e strapperemo queste dichiarazioni, che se non verranno strappate siamo pronti nuovamente a rioccupare, diciamo, le stanze del rettorato. Beh, bene, io insomma ti ringrazio perché hai ripercorso in maniera assolutamente chiara la vicenda, insomma le immagini poi di quello che era successo a metà ottobre avevano fatto appunto abbastanza il giro, come ricordavi anche tu, però appunto mi premeva ricontestualizzare un po' la vicenda. Le considerazioni che mi vengono, insomma, da un lato sicuramente questa monetizzazione, diciamo, dei provvedimenti repressivi è una cosa che vediamo in atto ormai da qualche tempo in maniera più generale, e sicuramente insomma fastidiosa e preoccupante anche poi per chi si trova a pagare le conseguenze, quindi anche rifiutare questo tipo di provvedimenti è sicuramente un primo passo importante. Dall'altro, un po' quello che mi veniva in mente è che queste multe appunto sembrano tanto più assurde se si pensa che appunto gli studenti erano stati chiusi fuori dalla loro università, si sono visti anche caricare violentemente, ci sono stati degli arresti, tutto per tutelare appunto uno spazio universitario a quel punto totalmente privatizzato, in cui non c'era alcuna agibilità. Quindi queste multe sembrano quasi un voler punire una sorta di danno di immagine che viene fatto appunto a degli atenei ormai totalmente vetrina, che vengono prestati per questo tipo di eventi e che vengono anche militarizzati per questo tipo di eventi, e questo è sicuramente una tendenza appunto anche preoccupante che abbiamo visto anche qua a Torino con la Celer, che insomma può fare il bello e il cattivo tempo all'interno dei campus universitari, e questo appunto anche un po' l'altro dato che sicuramente si tratterà di contestare. Però appunto il fatto di voler multare mi sembra appunto poi nello specifico un voler tutelare appunto un'immagine che qualcuno invece voleva provare un po' a incrinare. Sì, ma poi, cioè, nel senso, diciamo, riassumo quello che tu dici in un semplice concetto, ma qual è veramente, ed è quello che ci siamo chiesti subito noi, l'interruzione di pubblico servizio dei ragazzi che legittimamente scendono a manifestare contro l'obbrobrio dell'università pubblica, diciamo l'espressione massima della privatizzazione, della logica del profitto, o quelli che chiudono l'università, quindi a quel punto veramente chiudono uno spazio pubblico, un servizio pubblico a tutti e tutte per farci una fiera dentro? Chi è che ha fatto l'interruzione di pubblico di servizio? Noi o loro? Non è un gioco di parole, è veramente così, che adesso vale di più appunto quello che tu dicevi, la vetrina, la performance, e quindi chi la interrompe, chi la rovina, chi la guasta è il vero colpevole, e non poi le cose concrete, quelle che contano veramente, come appunto l'istruzione e tutto quello che le concerne, che di sicuro non hanno nulla a che fare con una fiera. Assolutamente. Beh, Arianna, io ti ringrazio, insomma anche da queste frequenze vi mandiamo un in bocca al lupo per l'incontro di oggi pomeriggio. Grazie. Sicuramente nelle prossime puntate, insomma, avremo modo di riaggiornarci su questa vicenda, augurandoci, insomma, che si risolva per il meglio. Va bene, vi ringrazio, buona giornata. Un saluto, a presto. Ciao. Ciao. Allora, questa è appunto la testimonianza dei compagni e delle compagne di Sapienza Clandestina, che tra gli altri appunto sono stati colpiti da queste multe. Arianna ci ha raccontato un po' tutta la vicenda dall'inizio, vedremo un po' come e se si risolverà nelle prossime settimane, altrimenti, come promettevano appunto gli studenti, sicuramente la faccenda non si chiuderà qui. Io vi lascio ancora un po' di musica, poi ci avviamo verso l'ultima parte della puntata.

It's just age old power, blood, greed and lust. MPs, they protect these thieving fucks. Why they demonize benefit, cheats and such. Preaching guff, like how the filth are gonna clean us up. Acting mean and tough, it's so feeble. They even turn man's best friend on the people. A-C-A-D, all cops are bastards, all cops are bastards. A-C-A-D, all cops are bastards, all cops are bastards. A-C-A-D, all cops are bastards, all cops are bastards. A-C-A-D, all cops are bastards. Yo, war to a standstill, why E. Coyote rap, ordering anvils. Evidence mountain is more of an anthill. I'll torture the cop like falling with Anfield. Leave police forces, corpses on landfills. French revolutionary storming the Bastille. Yo, it's unpleasantly surprising. The 21st century peasantry uprising. Farmhands going mad heavy. Nestor Magno with bands ready. Framed by the state, Sacco and Vanzetti. Bebop and Rocksteady, splinter your group. Leave lots of shops sweaty, stinking a zoo. Bobby Charles de Menezes. No smiley culture, I snarled when I said it. Watch Prince Charles get beheaded. Let's start running cops, see and Tomlinson's back with Mark Duggan's song. A-C-A-D, all cops are bastards, all cops are bastards. A-C-A-D, all cops are bastards, all cops are bastards. A-C-A-D, all cops are bastards, all cops are bastards. I had a vision of more, I feel like living's a chore. I make beats, write bars, never written a score. All they give us is war. Stealing's only a sin if you're poor. The rich don't get pigs who wanna kick in their door. It's over corrupt, they say the system doesn't work, but you know that it does. They get richer every day, we get totally fucked. That's design, that ain't broken or bust. Now they're hoping to crush and take back what remains of hard won and now forgotten gains. I see a lot has changed, it's not the same, but we don't wanna return. Just rebuild stronger from lessons we've learned. Shit, I got to admit, I got a deep yearning to see PCs and MPs burning. In the world that we make, that we know work for a wage. A world that makes every dead cop turn in their grave. A-C-A-D, all cops are bastards, all cops are bastards. A-C-A-D, all cops are bastards, all cops are bastards. A-C-A-D, all cops are bastards, all cops are bastards. A-C-A-D, all cops are bastards. E 14 sulle libere frequenze di Radio Blackout. Allora, in chiusura di Parole Ribelli, torniamo a dare uno sguardo al contesto internazionale, in particolare a quello che sta accadendo nello stato di San Paolo in Brasile da ormai alcuni mesi. La scorsa settimana vi abbiamo appunto raccontato tramite la voce di uno studente brasiliano la grandissima mobilitazione che da ottobre si sta opponendo appunto nello stato di San Paolo a questo progetto di riorganizzazione scolastica proposta dal presidente Alckmin, che di fatto si tradurrebbe nella chiusura di decine e decine di istituti scolastici, che andrebbe a danneggiare in particolare gli studenti delle zone più periferiche, che sarebbero costretti a dover macinare chilometri per raggiungere la scuola, che diventerebbe quindi sempre più esclusiva e privatizzata. Rimando appunto all'approfondimento della scorsa settimana, che spiegava bene appunto i contenuti di questa riforma e anche le prime vittorie degli studenti, che per ora sono riusciti a ottenere una sospensione appunto dell'approvazione della riforma fino all'anno prossimo. L'audio l'abbiamo anche tagliato, pubblicato sul nostro blog, e lo trovate appunto su qua-torino.blogspot.it con alcune righe di introduzione. Ma come dicevo, questo fatto di aver sospeso di un anno l'approvazione della riforma è stato ovviamente ritenuto insufficiente dagli studenti, che si portano appunto a casa questa prima vittoria, ma hanno deciso di continuare a mobilitarsi, anche perché questo progetto di riforma, che per ora verrebbe sperimentato appunto nello stato di San Paolo, dovrebbe appunto poi essere un esperimento da estendere anche agli altri stati brasiliani, e questo sta dando anche un po' di spinta, di energia agli studenti degli altri paesi per iniziare a mobilitarsi. Per quanto riguarda appunto lo stato di San Paolo, attualmente sono 22 le scuole ancora occupate da diverse settimane, che fungono appunto proprio da centro di organizzazione per la mobilitazione, ma anche come luogo di scambio, di formazione politica per queste migliaia di giovanissimi studenti che stanno appunto partecipando a questa mobilitazione. E per la giornata di ieri, 21 dicembre, per il pomeriggio era stato lanciato quello che hanno chiamato il secondo grande atto in appoggio alla lotta degli studenti, che aveva come ritrovo alle 5 del pomeriggio l'Avenida Paulida, una delle principali strade di San Paolo. Ovviamente il fuso orario non gioca molto a nostro favore nel reperire informazioni sulla giornata di ieri, però da quello che sono riuscita a trovare questa mattina, appunto, si è creato questo corteo molto partecipato, che è partito appunto dalle varie scuole occupate per raggiungere il concentramento. Alla fine della manifestazione gli studenti sono stati caricati dalla polizia, in particolare mentre cercavano di entrare in una stazione della metropolitana, e in questo senso è importante anche la connessione che questa mobilitazione studentesca sta tessendo con un movimento più diciamo più longevo, che c'è già da qualche anno in Brasile, che è quello appunto per i trasporti pubblici, che è ovviamente legato a doppio filo anche alla questione studentesca degli spostamenti che questi studenti sarebbero poi costretti a fare per raggiungere le proprie scuole. E appunto proprio dentro la stazione della metro c'è stata una repressione abbastanza feroce dalla parte della polizia, che ha caricato gli studenti. Ci sono alcune foto che stanno circolando in queste ore, ma insomma anche nelle prossime puntate ci ripromettiamo sicuramente di continuare a seguire questa vicenda. Nel frattempo io posso rimandare a quella che è la pagina Facebook del coordinamento delle scuole occupate, che si chiama Comando des Escolas em Luta, che appunto posta di giorno in giorno i vari aggiornamenti sulla situazione, da cui appunto ho reperito anche per ora queste poche informazioni sul corteo di ieri. E un'ultima cosa, riprova del fatto che comunque questa mobilitazione si sta estendendo anche oltre i confini dello stato di San Paolo, e che proprio in questi giorni il comitato dei maestri dei paesi in lotta, che riunisce appunto tutte quelle componenti, organizzazioni, insegnanti e familiari che sono solidali con questa mobilitazione, hanno appunto stilato tutti assieme un dossier in cui denunciano le tantissime violenze della polizia che si sono susseguite in questi mesi di mobilitazione. Giusto per farvi un'idea, si parla di almeno 100 studenti che sono stati arrestati in questi due mesi di cortei, di occupazioni e di blocchi stradali. E appunto molti di questi cortei si sono ritrovati anche a fronteggiare violenze della polizia, così come le persone che venivano fermate venivano poi maltrattate durante il fermo. E appunto questi insegnanti, assieme a altre organizzazioni, hanno stilato un dossier con foto, video e racconti dettagliati, in cui denunciano appunto tutti gli abusi di polizia che si sono susseguiti, e che presenteranno insomma una qualche autorità per denunciare insomma l'accaduto. Ovviamente insomma sappiamo che questo tipo di iniziative poi difficilmente trovano conseguenze concrete, che gli abusi della polizia poi rimangono quasi sempre insomma cadono nel vuoto, però mi sembrava comunque esemplificativo del fatto che appunto si sta creando un vero e proprio coordinamento nazionale attorno a questa mobilitazione, che sta insomma proseguendo in maniera decisamente compatta e determinata, nonostante appunto i tentativi del governo di insomma mediare e sedare un po' questa mobilitazione, facendo questa appunto promessa del rinvio della riforma, che però di fatto all'oggi non garantisce nulla sul futuro appunto del sistema scolastico brasiliano. Quindi

them. Yeah, fuck them when we say we're not with them. We solid them, we don't need to kick them. This is no Southeast and Western. Yeah, guns close doors to the system. Yeah, fuck them when we say we're not with them. We solid them, we don't need to kick them. This is no Southeast and Western. Come tecniche immortali, come pubblici ufficiali senza dita sui giornali. Pensieri clandestini con le ali nelle stive delle navi, eversivi stili sulle strumentali. Prega a mani giunte con la vipera sul collo. Senti l'estasi, l'orgasmo oltre il culmine e il decollo. Le armate tu al tracollo mentre lei si spoglia e grida. E sera aurora in questa vita, dai stringila è finita. Lontani come astri, non ci sposti il vostro gogno. Non si compra l'estro del mio odio sopra i nastri. Alzo i calici con l'astri fino a che te parla gesto. E troppo ancora un po', ti antitopi il pop. Serpente nel dubbio sulle rive del Danubio. Con l'assenzio nella gola rime trame nuova scuola. Serpente lo duole, il morso suo è letale. Se la svastica sul sole oggi è il codice penale. Chi difende i dogmi dall'altare, chi resta a guardare, chi importando pace va dal killer di mestiere. E torna dentro un tricolore a tranci nelle bare. Tante madri e mogli che non voglio consolare. Feticista del doblone, la tua merda non mi gusta. Così parla Jules Henry come parla Zarathustra. Umano, troppo umano come nada sopra un beat feroce. Gli arcochista sotto al palco urlano più veloce. E più veloce sia, non resto più a guardare. Tra chi resta per me striscia per non inciampare. Il dramma quotidiano che mi sta pupilla, la pupilla, resto nella polveriera perché cerco una scintilla. Cammina nella strada, la testa nei tuoi sogni, le mani al caldo in tasca, in realtà stringono pugni, pronto per colpire quando meno te l'aspetti. Sublime l'inquietudine che arma i suoi progetti. Interdetti perché il 25 aprile non festeggio, se la dittatura va concesso qualche seggio. Dopo il sangue di mio nonno sopra le montagne, ma guarda la TV e piange insieme all'abbadante. La mia amante scrive in prosa, io rispondo con le rime, meglio una fine spaventosa, uno spavento senza fine. 12:31, allora in chiusura vado a ricordarvi l'appuntamento per quel che riguarda i prossimi giorni, visto che a Radio Blackout amiamo il rispetto delle tradizioni. Anche quest'anno l'imperdibile appuntamento di Natale sarà quello al Paso la sera, e allora invece che andarvi a leggere dall'agenda vi lascio ancor meglio allo spottino che è stato appositamente realizzato per la serata di Natale, poi ci risentiamo per i saluti. आज का दिन तो सबसे बड़ा है, सोचता है क्या तू? Happy Christmas to you, Merry Christmas to you. Quest'anno a Natale Radio Blackout vi chiede di diventare protagonisti. Stiamo cercando un nuovo DJ. Siamo stanchi delle solite voci logorroiche e grigie. Non ne possiamo più di CD che saltano e pronunce a caso. Per trovare il nuovo DJ abbiamo scelto la maniera più democratica che ci ha insegnato questo nuovo millennio. Un sanissimo talent show! Il 25 dicembre a El Paso si svolgerà il più grande casting mai tentato da una radio libera. 3 giudici, 12 concorrenti, prove mozzafiato, un ballometro, bouncy, bouncy. Un pubblico incandescente che deciderà il vincitore, che sarà il nuovo DJ di Radio Blackout. Se vuoi essere proprio tu il nuovo DJ, segui le istruzioni sul sito www.radioblackout.org. Alla le mani, vincerò, vincerò. Allora, quindi l'atmosfera è già bollente per questo attesissimo contest di Natale, quindi mi raccomando, 25 dicembre non mancate all'appuntamento al Paso. Allora, anche per questa settimana Parole Ribelli vi saluta e a questo punto vi dà appuntamento nel nuovo anno. La prossima settimana non saremo in onda, quindi vi ridò appuntamento poi a gennaio. Ora l'invito come sempre a rimanere sintonizzati sulle libere frequenze di Radio Blackout. Ricordo che a differenza delle altre settimane non ci sarà il GR delle 12:45, quindi adesso vi lascerò ancora in compagnia di un po' di musica in attesa dell'arrivo di Toshi e Simone per Cattivi Pensieri, che da oggi torna a trasmettere dagli studi di Via Cecchi, quindi rinnovo anche il mio bentornato a Toshi. E allora con questo vi saluto, auguro a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici una buona giornata e ci risentiamo tra qualche settimana.